Immaginate che x sia un numero qualsiasi che viene moltiplicato per 3. Ora, per scoprire x, dovete lasciarla sola da un lato dell'uguaglianza.